Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Oggi la parola d'ordine indotta dai cambiamenti climatici è sostenibilità. In poche parole, un po' ovunque nel mondo e in particolare in Europa, si cominciano a definire strategie di politica economica che abbiano come caratteristica prevalente appunto quello della sostenibilità ambientale. In questa direzione va ad esempio il New Green Deal che la Commissione europea sta mettendo a punto per mobilitare risorse per 1.000 miliardi da qui ai prossimi 10 anni. Ma se andiamo indietro nel tempo, non è certo la prima volta che ci si trova a dover fare i conti con gli effetti economici, sociali, politici dei mutamenti climatici. Nel Medioevo, ad esempio, troviamo notevoli e interessanti precedenti. Ce ne parla un volume di oltre 1.000 pagine pubblicato dalla Terza, dal titolo Storia del mondo dall'anno 1000 ai giorni nostri. Gli autori sono Francesca Canale, Amedeo Feniello e Luigi Mascilli Migliorini. Ne parliamo questa sera con Amedeo Feniello, che insegna storia medievale all'Università dell'Aquila. Buonasera e benvenuto, professor Feniello. Buonasera a voi, grazie dell'invito. A partire dal X secolo avviene un forte cambiamento nelle condizioni meteorologiche che apre la strada a quella che viene definita l'anomalia climatica medievale, che dura fino alla seconda metà del XIII secolo. Si tratta di un'oscillazione di pochi secoli dovuta a due eventi di maggiore impatto: una diminuzione delle attività vulcaniche tra il 960 e il 1000 e un'azione più energica del Sole, che mettono in movimento le grandi pompe oceaniche che regolano le temperature dell'acqua e le circolazioni atmosferiche. Con un riscaldamento globale di 1 o 2 gradi in media, con punte nel profondo nord di 4 gradi. Un cambiamento notevole, che però non ebbe un'azione uniforme. Se vi furono acque più calde nel nord del pianeta e un riequilibrio delle correnti monsoniche in Asia, altrove si ebbero gravi siccità, ad esempio nelle aree equatoriali e in molte zone del Nord Africa, con un abbassamento drammatico a partire dal 970 del flusso del Nilo, oppure sulla costa americana del Pacifico. Le aree più favorite furono l'Occidente latino, il circuito mediterraneo, gran parte dell'Asia meridionale e il Nord America orientale, che vissero un periodo di optimum che riecheggiò quello di età classica, con migliori condizioni ambientali nel nord dell'Atlantico, verso la Groenlandia e le coste scandinave, e un aumento delle temperature nell'emisfero settentrionale che divennero più calde e stabili, al punto che i resoconti del periodo non parlano mai di iceberg tra Islanda e Groenlandia. Professor Feniello, allora questo è un precedente storico molto rilevante. Il mondo attorno all'anno 1000 si presenta tutt'altro che un'epoca buia, immobile, spenta. In realtà assistiamo a un notevole dinamismo a partire dal Mediterraneo che si presenta come un vero e proprio pianeta nel pianeta. Interessante questo precedente. No, assolutamente, molto interessante non soltanto questo precedente, ma anche l'idea di un centro Europa che comincia a muoversi grazie ai mutamenti climatici. I grandi spostamenti dei popoli vichinghi verso l'Inghilterra o addirittura verso il Nord America, no? Questa prima scoperta dell'America dovuta ai vichinghi, e poi soprattutto le grandi migrazioni interne che permisero la colonizzazione di gran parte di quella che è oggi l'attuale Prussia, della Germania orientale e della Polonia. Ecco, interessante capire come si fece fronte in quegli anni agli effetti del mutamento climatico, che come abbiamo visto furono tutt'altro che uniformi nel pianeta, quindi ci furono, come dire, risposte differenziate da parte delle singole aree del pianeta. Sì, assolutamente, risposte differenziate e con eventi diversi, soprattutto ci fu la possibilità di una grande rivoluzione agricola, sì. Il fatto che la terra fosse più facilmente lavorabile, più maneggevole, permise per esempio un surplus di produzione che comportò un allargamento del mercato. Ciò che prima era soltanto sussistenza diventa invece possibilità di commercio. Ecco, ma pur con le dovute differenze, ci sono degli elementi che possano far Ritenere che quello che è accaduto in quegli anni, in qualche modo ci avvicini a quello che sta accadendo oggi, oppure proprio sono paragoni assolutamente impossibili da fare? Sono paragoni impossibili da fare per diversi motivi. Il Sì. primo perché i mutamenti climatici sono un elemento costante della vita del pianeta e soltanto oggi gli storici stanno affrontando il problema in maniera più coerente. In secondo luogo, il mutamento dell'anno 1000 è un mutamento, diciamo, definiamolo positivo, soprattutto per l'Occidente. Quello che avviene invece dal 300 in poi ha dei caratteri dirompenti e finisce per disgregare veramente un'intera società. Ecco, veniamo proprio al 300, anni di grandi innovazioni. Ad esempio, ricordiamo che proprio nel 300 si può stabilire come data di inizio la nascita della banca, come noi la conosciamo oggi nei tempi moderni, ma anche esempi di globalizzazione veri e propri. Ma veniamo al 300 perché con la nascita della banca e il rafforzarsi dell'economia di mercato ci sono alcuni paesi che si trovano a dover rispondere a queste grandi innovazioni. Ecco, voi trattate di storia mondiale e approfondite anche il capitolo della Cina. Ecco, ma la Cina rispose a queste grandi innovazioni con l'ampliamento, ad esempio, della Grande Muraglia, che potremmo definire un'opera keynesiana ante litteram. Assolutamente, possiamo definirla così. La definizione della Grande Muraglia, secondo i criteri che conosciamo noi oggi, che comincia insomma dalla fine del XIV secolo in poi, è dovuta alla dinastia Ming, è una grande risposta alla terribile crisi alimentare e demografica che aveva sconvolto il paese. E non fu soltanto la Grande Muraglia l'operazione vincente, ma ce ne furono altre, come per esempio la creazione del Grande Canale che conduceva a Pechino, la riattazione delle grandi vie d'acqua. Insomma, ci furono tutta una serie di interventi che diedero la misura e danno la misura di uno Stato che concepisce se stesso come elemento e come volano di sviluppo. Ci sono mutamenti climatici, ma anche profondi cambiamenti dal punto di vista demografico in questi secoli, che noi Assolutamente, ce ne chiamiamo, sono. ecco, appunto del Medioevo, ma tantissimi. Sì, ce ne sono due terribili. Il primo è la grandissima invasione mongola, che veramente scompagina quelli che erano i confini e le identità istituzionali che c'erano allora in tutto il mondo, perché l'impero mongolo va praticamente dalla Corea fino quasi alle coste del Mediterraneo. L'altra grande crisi deriva dalla pandemia, dalla cosiddetta peste, la peste nera 1348, che questa non è una casualità, nasce proprio nella zona dove oggi si sta scatenando questa nuova epidemia, cioè Certo. a Wuhan, nella zona dello Hubei. Nasce lì la grande peste nera. Speriamo che non si vivano gli stessi effetti che sono vissuti 700 anni fa. Ecco, ma in che senso possiamo parlare di globalizzazione in quegli anni, negli anni dei secoli che sono del 200 e del 300? Una globalizzazione ovviamente di tipo assolutamente diverso rispetto all'attuale, ma con elementi che possono però portarci anche a considerarla come un precedente storico da non sottovalutare. Assolutamente, soprattutto per quanto riguarda il grande continente eurasiatico, il grande sviluppo delle strade di collegamento, non soltanto terrestri ma anche marittime. Non pensiamo soltanto alle vie della seta, ma anche al grande volano di sviluppo che fu la struttura di passaggio marittimo che andava dal Giappone fino all'India e dall'India fino all'Africa, che fu uno degli elementi maggiori dello sviluppo mondiale, in un'ottica davvero globalizzata. Perché quello che noi spesso leggiamo nella storia medievale è soltanto un piccolissimo spicchio che riguarda l'Europa, ma l'Europa era soltanto l'elemento terminale di una grande catena economica che partiva dalla Cina e arrivava fino a Genova, a Venezia. Ecco, e parlando proprio dell'aspetto economico, sono anni di grande rilevanza anche dal punto di vista dello sviluppo del credito, cioè il credito così come lo conosciamo oggi con la nascita della banca moderna, se vogliamo, proprio in quegli Sì, anni. assolutamente. La banca moderna nasce in Italia, nel corso, alla fine del XIV secolo. Diciamo, il suo inventore, definiamolo così, fu Francesco di Marco d'Achini, il cosiddetto mercante di Prato, che inventa l'antenato della holding, e soprattutto il credito diventa il grande elemento di sviluppo per gli stati nascenti. Si crea proprio questo connubio, questa dialettica fortissima tra i sovrani delle monarchie di informazione, penso alla Spagna, penso alla Francia, penso all'impero tedesco, che crescono grazie all'appoggio dei grandi finanziatori. Senza di loro, senza i Fugger per dirne uno, Carlo V per esempio non sarebbe potuto sopravvivere. Ecco, un'ultima questione più di carattere generale che attiene proprio ai suoi studi, professor Feniello, e che riguarda il Medioevo nel suo insieme, che è un periodo storico lunghissimo, però continua a esserci nella percezione comune la sensazione che il Medioevo sia appunto l'epoca buia, l'epoca oscura. Molto spesso si dice stiamo tornando al Medioevo, e in realtà invece è tutt'altro, è un'epoca Sì, il problema è da che punto di vista si guarda. Se noi immaginiamo l'Occidente, l'Europa del X secolo, sì, era un'epoca di declino, di degrado, ma se pensiamo ad altre aree, basta soltanto immaginare che cosa fosse la Spagna degli Omayyadi intorno al X secolo, cioè una delle civiltà più splendenti del pianeta, e allora non si può più parlare di un'epoca oscura, ma anzi di un'epoca luminosissima per civiltà, per ricchezze e per ambizioni. Ecco, allora, un motivo in più per invitare i nostri ascoltatori a leggere questo interessante volume pubblicato dalla Terza, lo ricordiamo, dal titolo Storia del mondo dall'anno 1000 ai nostri giorni. Bene, allora grazie professor Feniello per essere stato con noi, grazie, e buona serata. Grazie a voi, grazie, buona serata, grazie. Buonasera a voi ascoltatori, grazie a Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia, alla settimana prossima. Buona serata a tutti.